Buongiorno. Perfetto, ti sentiamo bene, insomma, e appunto parliamo oggi della giornata mondiale sull'AIDS, sì. Dove si parla appunto sì. di questa, diciamo, bruttissima malattia, appunto, però ultimamente un po' messa, un po' accantonata, diciamo, le notizie su questa su questo morbo. No, fatti male, eh? Sì. sì, purtroppo no, sì, insomma. Vabbè. Bruttissima malattia. No, no, scherzo. Ovviamente no, è la giornata della lotta all'AIDS o della lotta all'HIV, che sono partirei con lo sfatare un grande misunderstanding, che è quello che vede all'HIV e l'AIDS come due sinonimi, cioè il virus è quello che puoi contrarre, e quando il virus si replica al punto da inficiare il sistema immunitario, allora poi si chiama sindrome da immunodeficienza acquisita, che, o AIDS, che è la sigla, cioè. E quindi tante persone oggi, grazie alle nuove terapie, diciamo che se scoprono di avere l'HIV non arrivano mai allo stadio dell'AIDS, perché i farmaci di oggi, come più o meno si sapicchia, ti permettono, insomma, che questa diagnosi non si trasformi in una condanna a morte come era 30 anni fa. E questo così per dire una cosa che è scontata, che sanno in molti ma non tutti. Ottimamente. E invece poi, appunto, ti volevo domandare, ma voi siete di un'associazione che si chiama Conigli Bianchi? Ah sì, non mi sono presentato. Scusa. No, vabbè, ma insomma, appunto, te lo chiedo appositamente, così insomma ce ne parli sì. un attimo. Noi siamo un gruppo di amici, alcuni di noi sono sieropositivi, altri no, e alcuni di noi sono dei fumettisti, altri sono dei curatori di eventi, diciamo che abbiamo deciso di formare questa associazione per provare a rompere il silenzio in modo diverso dal solito, e quindi a non utilizzare la paura come un veicolo di qualche forma di prevenzione, ma a cercare di rovesciare appunto tutto questo, questa negatività e questo alone mortifero che l'HIV, insomma, si è meritatamente conquistato negli anni. E però diciamo che sono successe delle cose in questi anni, essenzialmente la medicina ha progredito e quindi ha migliorato di anno in anno la vita delle persone in cura, e fino appunto a garantire un'aspettativa di vita, si dice, non inferiore a quella degli altri, cioè addirittura molti medici che dicono: ragazzi, queste persone vanno a fare un check-up totale ogni 6 mesi, ogni 12 mesi, non lo fa nessuno, quindi paradossalmente potrebbero avere anche la aspettativa di vita più alta degli altri, no? Quindi io personalmente ho scoperto di averci questo invisibile ospite nel 2011, non ne sapevo niente, e mi sono stupito in primis della mia ignoranza, per esempio, no? Quindi diciamo che parte il tutto da delle esperienze personali di alcuni di noi e dal gap che abbiamo scoperto esistere fra la realtà che vivi ogni giorno, cioè nel senso che ti devi ricordare di prendere una pasticca ogni 24 ore e che ti dà degli effetti collaterali apparentemente nulli o minimi sul lunghissimo periodo, e l'altra notizia che non sapevo è che se sei in terapia non sei infettivo, cioè nel senso sei completamente incapace di trasmettere il virus a un'altra persona, e parlo di trasmissione sessuale o anche di trasmissione da madre a figlio, per esempio. E anche questa cosa io non la sospettavo minimamente, poi ho scoperto che erano più di 15 anni che si sapeva questa cosa, ma chissà, da solo 5-6 anni alcuni studi, tra cui, per chi vuole approfondire, il più famoso è lo studio Partner, hanno in realtà conquistato la percentuale di rischio zero, cioè nel senso se te assumi questa pasticca o queste pillole o quello che stai assumendo come cura quotidianamente, te sei un partner sessuale in realtà non infettivo, ecco. E quindi saputa questa cosa ci siamo detti forse è l'ora di farlo sapere al mondo, perché tante volte le persone pensano di proteggersi magari che ne so, stigmatizzando o evitando come la peste le persone che magari hanno il coraggio di dire che sono seropositive o che vivono con HIV, come dir si voglia, insomma. e questa cosa, diciamo che al di là dell'ingiustizia, di una discriminazione inutile, alimenta appunto questo tabù, no? Cioè, nel senso, l'HIV è un tabù perché da un lato è una malattia e nessuno ha una grande passione a parlare di queste cose, dall'altro c'è il sesso di mezzo, no? E quindi appena c'è le mutande di mezzo, diciamo che in Italia più che in altri posti sale subito l'imbarazzo, no? E quindi queste due cose sommate, questa è una cosa sia sessuale che appunto potenzialmente letale, a quanto ne sa la gente, anche se non si muore più in Europa, visto che in Europa le terapie sono gratuite, insomma. E niente, quindi insomma ci sono tanti luoghi comuni da sfatare, noi proviamo a farlo senza attaccare i pistoloni che sto attaccando adesso al telefono. No, ma è molto interessante, perché come hai notato, insomma, la mia ignoranza, diciamo, testimonia un'ignoranza ancora più generale, che, insomma. No, poverino, no, te hai detto malattia, giustamente l'AIDS è una malattia, l'HIV è un virus, e comunque in generale oggi, cioè politicamente oggi si cerca, no, in tutti gli ambiti di cambiare linguaggio, quindi essendo che è una situazione ormai quasi cronica, si dice che cioè è al pari di altre, insomma ci sono tante persone che non la scambierebbero, che ne so, con un'epatite, con un diabete, con delle cose che sono molto più inficianti della sua vita quotidiana. Eppure, perché le altre non hanno questo livello di stigma associato? Perché appena c'è il sesso di mezzo te la sei cercata, insomma, no? Sì, poi in questo paese con il Vaticano di mezzo, insomma. Sì, purtroppo in realtà in tutto il pianeta, andando a ritroso nel tempo, l'epidemia dell'AIDS ha fregato tutti. Cioè, la rivoluzione sessuale che avevamo fatto negli anni 70, esplosa questa epidemia, ha dato il potere a chi ci aveva interesse a farlo, a ridividere la società in santi e peccatori, e quindi l'AIDS è stato comodo usarlo come strumento per dire che i deviati erano gli omosessuali, erano le prostitute, erano i tossici, no? Sempre con questi poi epiteti deliziosi, insomma, e lì scatta infatti il giudizio, e scatta anche il senso di invincibilità, cioè nel senso, io sono omosessuale, insomma, e bene o male nasco nell'83, che è l'anno in cui nasce il virus dell'HIV, e sapevo che era un argomento che mi avrebbe potuto toccare, perché mi è stato ripetuto più volte anche dal cinema che era un argomento che riguardava solo me. E il paradosso poi appunto è che in Italia, se te prendi, si parla di 150.000 160.000 persone in HIV, e il 40% sono uomini che fanno sesso con uomini, il 44% sono eterosessuali, quindi la maggioranza sul numero assoluto, no? Sì, sì. Questo dimostra che nessuno è immune. Poi ovviamente l'Italia non è per metà gay, quindi la mia comunità, l'HIV, insomma, lo riguarda un po' più da vicino, si parla quasi di una percentuale abbastanza importante, la comunità era un po' meno, però comunque questa leggenda, insomma, che non riguarda altri che queste categorie più esposte al rischio, fa sì poi che i miei amici etero, insomma, si parlano di preservativo, parlano di contraccezione, di certo non parlano di protezione da qualcosa, insomma, no? E quindi niente, diciamo che noi non siamo un'associazione che lavora solo nel mondo LGBT, vorremmo dare voce anche a tante donne che appunto sono colpite pesantemente poi dall'onta, e immediatamente vengono guardate come persone che hanno fatto qualcosa di strano, no? Che hanno avuto una vita dissoluta, e quando vai ad aprire i dati dici l'80% delle infezioni avviene in coppie stabili, tra marito e moglie o fra fidanzato e fidanzata, e ti dici, allora non è un problema di promiscuità, è un problema che se te ce l'hai non lo vedi prima di 10 anni, cioè nel senso, in realtà non ci sono, per quanto sappiano tutti che è letale, nessuno sa che è asintomatico per anni e anni, ecco, quindi niente, insomma, vabbè, potrei parlartene. Sì, sì, no, ma insomma fai bene a farlo. Sì, sì, no, vabbè, a me mi appassiona, l'ultima cosa che mi fa piacere sempre dire è che in realtà, cioè, se uno si accolla di confrontarsi un attimo con questo argomento, non tutti i giorni, ma una volta nella vita, insomma, perché le cose poi una volta che uno le sa e basta, e secondo me più che un argomento sfigato, che viene sempre percepito come una cosa tipo roulette russa, no? Speriamo che non mi tocchi a me, in realtà c'ha il potere di davvero modificare le relazioni affettive che ci abbiamo, perché ti dà la scelta e ti dà la capacità di rispettare i tuoi partner. Cioè, tanto noi facciamo delle installazioni, delle mostre, giriamo un po' l'Italia, festival, e tante volte le persone non capiscono perché noi abbiamo oscurato tutte le parole chiave HIV, AIDS, cioè in realtà nelle nostre cose non le leggi subito, quindi ci vuole sempre qualcuno che te le spiega, e quando lo scoprono hanno sempre delle reazioni piuttosto allarmate o molto incomode, no? E tantissimi dicono preferisco non sapere, che ci sta in un mondo in cui ti insegnano a pensare solo agli affari tuoi, però magari la tua fidanzata preferiva che tu lo sapessi, no? O magari il figlio che hai appena partorito, gli sarebbe piaciuto se te una volta nella vita il test te lo facevi, insomma. Vedi un po'. Sì. E quindi ecco, diciamo che è uno strumento figo in realtà di dare valore alle relazioni affettive e sessuali, che siano stabili o di un'ora che abbiamo, insomma. Quindi diciamo che il tentativo nostro, noi siamo appena nati, è vedere il lato positivo, ora a parte il gioco di battute drammatico, demenziale, che non lo usiamo mai, va bene, inteso. E vedere le cose, appunto, le informazioni che sono gli strumenti di potere, che liberano la sessualità e ci liberano tutti da questo giudizio, dal crocifisso, eccetera, eccetera. Niente, mi taccio, dai. Ma insomma hai detto molto una cosa secondo me fondamentale, che insomma con la disinformazione il potere ci controlla, e quindi insomma fare informazione è sempre una cosa, diciamo, positiva, per insistere insomma con questa parola, ma appunto che ci dà anche a noi il potere di sapere le cose. E va bene, noi insomma, per festeggiarci, ti volevo solo dire, certo, che stasera facciamo una specie di gran galà dei conigli bianchi, che è una iniziativa appunto senza scopi di lucro, a ingresso gratuito, inizia alle 9 vicino all'Arco Trieste, al Largo Venue, e abbiamo la mostra in anteprima con le nuove illustrazioni dei conigli, e un sacco di performer, concerti, abbiamo il tango queer, e una serie, distribuiamo preservativi a fiocchi, insomma, ma al di là di quello, insomma, cerchiamo di fare è una cosa contro lo stigma e non sempre sulla paura e sulla prevenzione e basta, e facendo appunto una festa, noi ci si balla con l'HIV, insomma. E invece ti chiedo solamente di ripetere meglio l'indirizzo di questo posto, che così insomma tutti e tutte potremo intervenire. È Largo Venue, chi usa Facebook trova tutte le informazioni sulla pagina Conigli Bianchi, e la via è via Michelotti numero 2, se mi dai, dovrei controllare, vabbè, insomma, sì, è Largo Venue, è a Largo Prenestina, sulla Prenestina dopo la SNIA, dopo il Parco delle Energie, sull'angolo della Prenestina, siamo qui sempre, parte tutto da Roma al limitare del Pigneto, insomma. Perfetto. Va bene, ti ringrazio moltissimo di questa corrispondenza molto molto interessante. Grazie, e insomma, voi. E comunque probabilmente continueremo a tenerci in contatto per continuare a parlare di queste storie, che insomma. Risentiamoci, che io ora, perché sono qui che allestisco, ma se mi organizzo meglio il pensiero avrei tante cose, insomma, interessanti da mettere sul piatto. E noi ti ringraziamo molto per questo. Grande. Allora, buon primo dicembre, a stasera, chi ci vuole passare a trovare, insomma. Ok, allora, ciao ciao, allora, a presto. A presto, un abbraccio. Wem ist